wonder, tra le canne di bambù, you remember. Ti ho incontrata un po' per caso, almeno credo, perché con te non si sa mai se è tutto un gioco. Già sapevi che ti avrei dato di più, era un giorno di dicembre, il cielo blu, è l'inverno che di solito brucia estate, da quel giorno io non ho più avuto sete, da quel giorno io non ho più avuto sete, ti ritrovo nei quaderni di un bambino, nel cortile dove si gioca a nascondino, in ogni mia destinazione, tu che sei la mia stazione, e il mio treno, il vaporetto, la soffitta del mio tetto, tu sei sempre stata la mia fortuna, la mia gioia, il mio natroccolo, la mia lana, il mio cappotto, i miei occhiali, il mio gatto con gli stivali, quando i denti ballano il tango e il freddo spacca il vento, quando i denti ballano il tango e il freddo spacca il vento. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Dimmi, dimmi, dimmi ora dove sei. Tu che hai il potere di cambiare il profondo di ogni cuore. Tu che hai il permesso di entrare, il permesso anche di uscire. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Dimmi, dimmi, dimmi chi sei. Che voglio respirare il tuo profumo in mezzo al mare, annusare la tua voglia di libertà e di amore. Ti vedo in ogni strada sui manifesti, anche se poco ti piace apparire e poco ti mostri. Hai altro da occuparti, altro da fare, a te piace volare, volare, volare. Paladini ti fanno bella la corte, e tu appartieni a chiunque ti chieda consorte. Il tuo nome rende sana la bocca, chi ti ha più non ti cerca né ti aspetta. Chi ti ha più non ti cerca né ti aspetta. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Dimmi, dimmi, dimmi ora dove sei. Tu che hai il potere di cambiare il profondo di ogni cuore. Tu che hai il permesso di entrare, il permesso anche di uscire. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Dimmi, dimmi, dimmi ora cosa fai, che ho voglia di respirare il tuo profumo in mezzo al mare, annusare la tua voglia di libertà e di amore. Una radio trasmetteva Stevie Wonder, tra le canne di bambù, you remember. Ti ho incontrata un po' per caso, almeno credo, perché con te non si sa mai se è tutto un gioco. Già sapevi che ti avrei dato di più, era un giorno di dicembre, il cielo blu, è l'inverno che di solito brucia estate, da quel giorno io non ho più avuto sete, da quel giorno io non ho più avuto sete. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Dimmi, dimmi, dimmi ora dove sei. Tu che hai il potere di cambiare il profondo di ogni cuore. Tu che hai il permesso di entrare, il permesso anche di uscire. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Dimmi, dimmi, dimmi ora cosa fai, che ho voglia di respirare il tuo profumo in mezzo al mare, annusare la tua voglia di libertà e di amore. Lai lai lai lai lai lai lai lai.